4 mattino. Sono il marito di un insegnante che racconta tutti i giorni quello che succede a scuola e la grande disorganizzazione che c'è ancora nell'affrontare le situazioni di Covid. Ricordo che non ci sono solo gli insegnanti, ci sono anche quelli che vivono con gli insegnanti. Io sono un libero professionista. Quando mi dovessi infettare io? Le scuole non sono chiuse, le scuole sono aperte ma con didattica a distanza. E inoltre almeno il 25% degli studenti sono in presenza. 25% rappresentato dai ragazzi con difficoltà sociali, economiche, di accesso alla rete internet, e quindi questi possiamo aiutarli, con genitori che entrambi lavorano. Questo 25% toglie pressione sul sistema dei trasporti. Le cose possono funzionare, non funzioneranno sicuramente al meglio, ma funzionano. Di certo questa ragazzina, ragazza di 18 anni, non se l'è cercata. Certo che, dico, 18 anni, passare la notte fuori casa, e i genitori dove sono? Non gli chiedono con chi va, dove va, cosa fa? No, a parte che a 18 anni, primo elemento. Il secondo elemento, ma sì, se vuole possiamo riflettere su tutto. Pieno di diciottenni che passano la notte fuori, è pieno di diciottenni che passano la notte fuori. Poi qualcun altro mette in mezzo la questione culturale, lo schema secondo il quale si cerca fortuna in modi particolari andando alla festa piena di coca del noto imprenditore. Va bene, se volete possiamo anche ragionare su quello, però il grande tema mi sembra la reazione che c'è stata in un pezzo dell'opinione pubblica alla violenza subita da questa ragazza, questo se l'è andata a cercare, che anche quando non viene espresso in questo modo viene comunque detto, perché sotto traccia nel dire, come qualche ascoltatore ci ha scritto nei giorni scorsi, io mia figlia di 18 anni non la manderei mai in una situazione di questo genere. Un po' sotto traccia c'è sempre quello, c'è sempre il dire non ci doveva andare. E quindi se l'è cercata, la conclusione alla fine è quella. Comunque ne parleremo, poi abbiamo qualcosa sul tema della violenza di genere in rassegna stampa, e poi ne parleremo, come vi dicevo, alle 8.35. Sul tema della scuola, invece, c'è sì il tema di chi è parente o di chi è il marito, la moglie, il compagno, la compagna di un insegnante, sicuramente, però non è questo che deve evidentemente orientare la scelta, ma le scuole vanno riaperte in sicurezza. L'ascoltatore che dice invece sono aperte al 25%, dico che non in tutte le regioni. In realtà in alcune regioni, come sa perfettamente, di cui una, la Lombardia, tanto per fare un esempio, conta 10 milioni di abitanti, un'altra, la Campania, ne conta 5 milioni, e quindi parliamo di una fetta consistente della popolazione italiana. Ebbene, in queste regioni invece la scuola è chiusa, le scuole superiori sono chiuse completamente, certo con la possibilità di andare in presenza per i ragazzi che hanno difficoltà, ma ce n'è uno, due per classe, che fai? Li mandi in due in classe da soli? Perpetuando di fatto uno stigma? Non è esattamente così. Forse andrebbero aperte al 25%, nel senso che almeno due giorni a settimana li fai in presenza, alternando e gestendo le cose come si fa in un paese normale. Poi magari sbaglio io, però però si può fare se altri paesi lo fanno. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:23 minuti e 30 secondi, è lunedì 23 novembre e i titoli dei quotidiani oggi sono vari, perché La Stampa, Il Fatto Quotidiano e Il Giornale si concentrano sull'aspetto politico, ossia questo riavvicinamento di Berlusconi alla maggioranza, su tre fronti diversi. La Stampa ci dice che è in arrivo, almeno teoricamente, un bonus da 20 miliardi per gli autonomi, e questo sarebbe un pezzo di composizione della manovra che fa parte dell'accordo tra Forza Italia e la maggioranza. A gennaio altri ristori a fondo perduto. Il Fatto Quotidiano si sofferma sulla vicenda della norma per Mediaset e apre con un'intervista al ministro delle attività produttive Stefano Patuanelli, il quale il titolo è: ecco il perché della norma su Mediaset, ora l'antitrust, dice Patuanelli, che si colma un vuoto normativo. Il Giornale apre su Berlusconi che stoppa Salvini, il no del Cavaliere a una federazione, un modo di imporci decisioni altrui, con Gualtieri che apre positiva la disponibilità di Forza Italia. Si dedicano ad altro, per esempio al Covid e a quello che succederà con le vacanze di Natale, il Corriere della Sera che ci parla di feste senza neve e veglioni con la stretta di Conte, le vacanze non saranno l'anticamera della terza ondata. Il Messaggero: il virus si sposta in provincia verso il sì alla messa di Natale. La Repubblica ci apre con un'intervista al sindaco di Milano Beppe Sala che dice la sanità lombarda è da rifare. La Verità sostiene che Conte prepara la stangata del 2021, la sospensione delle scadenze fiscali è una buona notizia solo in apparenza, in realtà nasconde una gigantesca fregatura. Perché? Perché poi nel 2021 queste tasse andranno pagate. Libero: da noi il Covid uccide di più perché non investiamo in cure, parla così lo scienziato Gattinoni. Il Quotidiano Nazionale: regalo di Natale chiusa il bancomat, un terzo bonus da 150 euro oltre ai due cashback previsti nel mese di dicembre. Il Sole 24 Ore apre su bonus casa 110% che rilanciano i lavori, ma bisogna fare attenzione al calendario, fino adesso dai privati è arrivato l'88% delle richieste. Poi c'è la Gazzetta dello Sport che apre sulle due milanesi, Milan boom e bang bang Lukaku su appunto Milan e Inter. Da cosa iniziare oggi? Sapete che iniziamo proprio da questioni che hanno collegate al Covid, però sta facendo molto discutere a Bergamo e dintorni quello che è successo nel fine settimana. La ressa per il gioco, la ressa per il Monopoli, una folla nell'Iper senza distanziamento, ci racconta a pagina 5 del Quotidiano Nazionale Francesco Donadoni. Tutti in coda, assembrati per comprare il Monopoli edizione Bergamo. E guardate che la foto è veramente impressionante dell'Iper di Seriate. Che cosa è successo? L'idea di fondo era dare un aiuto concreto alla città martire della pandemia. Le immagini dei mezzi militari che trasportavano le bare avevano fatto il giro del mondo e per provare a rialzarsi raccogliendo un po' di soldi è nata la versione orobica del celebre gioco da tavolo. 7.000 pezzi, i primi sono finiti sugli scaffali dei centri commerciali Iper della provincia. Parte del ricavato, circa 10.000 euro, pari a 300 scatole, sarà destinato al fondo di mutuo di soccorso del comune. Peccato che per la buona azione, ma anche per accaparrarsi la primizia, ci si sia accalcati, tanto che sono dovuti intervenire i carabinieri del NAS e i vigili che hanno a questo punto multato l'ipermercato. Così a Bergamo, dove il sindaco Giorgio Gori diceva: per chi lo compra sappia che sta aiutando qualcuno in difficoltà, una delle molte famiglie in crisi, alcune in situazioni di indigenza. E però appunto ci si è accalcati, per carità, con le mascherine, ma il metro di distanza era tutt'altro che rispettato. E visto che siamo su Covid, a Roma, guardate, la cosa tra l'altro sta girando parecchio sui gruppi WhatsApp, io non so a chi sia arrivata, sta succedendo questo, che ci sono delle persone riscontrate positive senza aver fatto il tampone. E Pare che sia proprio così. Positivi al Covid sulla piattaforma della Regione Lazio senza aver fatto il tampone. Nello scompiglio di migliaia di dati, racconta Lorenzo De Cicco a pagina 43 del Messaggero, il server che dovrebbe aiutare le ASL di Roma e i medici di famiglia a gestire i positivi riporta dati sbagliati, col risultato che alcuni pazienti ancora in attesa del test si sono ritrovati incasellati tra i contagiati e altri che si erano già sottoposti all'esame con referto negativo sulla piattaforma invece risultano infetti. Bizzarrie di Dr. Covid, l'app lanciata dalla regione a marzo nella prima fase della pandemia proprio per monitorare i positivi, un sistema che la regione sul portale Salute Lazio definiva le migliori 5 app di teleassistenza disponibili sul mercato italiano nell'ambito dell'iniziativa interministeriale Innova Italia. Però evidentemente c'è qualcosa che non funziona e qualcosa che non funziona anche nella registrazione di positivi e negativi. Tutto da rivedere. Ormai consueta o quasi intervista del lunedì di Fiorenza Sarzanini a pagina 5 del Corriere della Sera con Agostino Miozzo, che è il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, e ancora una volta, anche oggi, torna sulle scuole. Le scuole vanno aperte o per i ragazzi sarà un massacro. Dottor Agostino Miozzo, una settimana fa lei aveva chiesto di riaprire le scuole, invece è tutto rinviato. Il suo appello è caduto nel vuoto? Più che il mio appello, la mia personale battaglia ideologica sono le indicazioni delle maggiori organizzazioni delle Nazioni Unite, come Organizzazione Mondiale della Sanità, UNESCO e UNICEF, oltre che le decisioni di paesi che non mi sembrano stati sottosviluppati dell'Africa centrale, come Francia, Regno Unito e Germania. Tutti concordi, le scuole devono, non possono, ma devono restare aperte. Invece si va a gennaio. Il 7 gennaio è giovedì, quindi ci sarà un probabile slittamento a lunedì 11. In ogni caso l'indicazione di riapertura a gennaio non è garantita, visto che non abbiamo alcuna certezza sullo sviluppo della pandemia. E poi c'è Natale di mezzo. Che cosa teme? Se nella festività avremo momenti analoghi a quelli vissuti nell'estate appena trascorsa, l'evoluzione dell'epidemia porterà dati simili o addirittura peggiori di quelli attuali. E quindi scuole, per il momento, almeno da quel che capiamo, dimenticatevele. Una pausa. Mattino. Buongiorno Spezia. Beh, ma che novità c'è? Il Movimento 5 Stelle fino a pochissimo tempo fa vedeva come il fumo negli occhi anche il Partito Democratico. Adesso ci governa insieme, di cosa ci stupiamo? Ma, caro Spezia, il conflitto di interessi che vige in Italia da più di 25 anni, adesso lo dovrebbero risolvere i 5 Stelle in 6 mesi, in un anno, espropriando che cosa? Mediaset, Berlusconi. Adesso arriviamo a tutta la questione politica, però resto ancora solo per un attimo sul tema della scuola, per darvi una visione diversa. È quella, tra l'altro me l'ha segnalato anche poco fa un ascoltatore, ma avevo già in animo di tirarla fuori perché la prendo volentieri, Massimo Recalcati sulla Repubblica, che dà un'opinione diversa rispetto a quella che sentiamo spesso e a quella che sentite e che avete sentito anche da me, e molto più autorevolmente ovviamente, perché Recalcati queste cose le studia. Proviamo a chiederci, scrive Recalcati su Repubblica, quando mai un processo di formazione avviene seguendo una traiettoria ideale? Chi si occupa a diverso titolo di formazione sa bene che quello che dà davvero forma alla nostra vita non è mai nell'ordine dell'ideale. I maggiori effetti formativi si generano non a partire dai successi o dalle gratificazioni, dalle prestazioni mirabili o dalle affermazioni senza intoppi, ma dalle cadute, dai fallimenti, dalle sconfitte, dagli smarrimenti. Ebbene, non è quello che sta accadendo sotto il terribile magistero del Covid-19. I nostri figli non si trovano forse confrontati con l'asprezza del reale invece che con il mondo sempre un po' ovattato dell'ideale? Il movimento proprio di ogni formazione spiraliforme riguarda innanzitutto la capacità di rispondere alla ferita e al trauma. Come ci si rialza dopo essere caduti? Come si riparte, come si riprende il cammino dopo essersi smarriti. Ogni formazione è fatta di buoni e di cattivi incontri, di buona e di cattiva sorte. I genitori contemporanei vorrebbero invece escludere per i loro figli l'esperienza dell'ostacolo e dell'impatto aspro con il reale, la sofferenza e la frustrazione. Per questo essi oggi possono apprensivamente gridare al trauma, preoccuparsi di tutto il tempo irreversibilmente perduto dai loro figli, maledire le rinunce alle quali sono stati ingiustamente sottoposti, ma in questo modo correranno l'inevitabile rischio di vittimizzare i loro figli e un'intera generazione. Quindi così recalcati su Repubblica. Un altro ottimo spunto di dibattito, mi sembra, questo di recalcati. Oh, le questioni politiche. Direi che domina la scena sul tema Mediaset, quello sul quale ci hanno mandato gli WhatsApp i nostri ascoltatori. L'intervista realizzata, che trovate a pagina 2 del Fatto Quotidiano, con il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. Perché, gli chiede Carlo Di Foggia, avete deciso di aiutare Mediaset nello scontro con Vivendi con una norma ad hoc? Non siamo andati incontro a Mediaset, dice Patuanelli. Quella norma è giusta e serve per colmare il vuoto normativo seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea, che ha stabilito che i limiti all'incrocio tra media e TLC per un operatore non devono essere fissati rigidamente. È una normativa momentanea che dà alla AGCOM, un'autorità indipendente, il potere di decidere sull'incrocio e sul pluralismo dell'informazione. La prima beneficiaria, chiede Di Foggia, è però Mediaset, che potrà trattare una pace con Vivendi da una posizione di forza. È un effetto indiretto, ma non la ratio della norma. La norma è generale, in futuro potrà riguardare aziende diverse. Io contesto da sempre quando la politica fa norme ad aziendam, ma non è neanche corretto farle contra aziendam. Ad ogni modo, la AGCOM potrebbe dire che non ci sono problemi per Vivendi. Qua ovviamente Di Foggia poi gli chiede, cosa che Patuanelli esclude come prevedibile, se ci sia questa norma alla base del progressivo avvicinamento tra Silvio Berlusconi e la maggioranza. Silvio Berlusconi che viene descritto dal giornale come la persona che la persona che stoppa Salvini sull'idea che aveva lanciato Matteo Salvini di creare una federazione del centrodestra. È un modo, dice Berlusconi, per imporci decisioni altrui, ma il nodo di tutto è nel fatto che il ministro dell'economia Gualtieri abbia aperto ieri sera alla collaborazione di Forza Italia nella scrittura della manovra. Forza Italia che propone per le partite IVA lo stop ai versamenti, come in una lettera di ieri al Corriere della Sera. E qua abbiamo quello che potrebbe essere uno dei primi effetti, come vi dicevo, di questo accordo politico. Lo trovate sulla Stampa a pagina 2 in un pezzo di Alessandro Barbera che ci racconta come stia arrivando il ristori quater, cioè il quarto decreto per i ristori delle persone colpite, delle aziende colpite dal Covid. Vale 8 miliardi e rinvierà le scadenze fiscali di novembre e dicembre di aziende e lavoratori autonomi con cali di fatturato superiore ad un terzo. E appunto subito dopo, questo è il TER, subito dopo ne arriverà un altro da circa 20 miliardi, ricalcherà il decreto rilancio di maggio che aveva concesso contributi a fondo perduto fino a un massimo di 150.000 euro, e di base dovrebbe vedere esattamente la collaborazione di Forza Italia. Come vedete cambiano un po' le geometrie della maggioranza, perché è interessato anche alle vicende politiche, ma soprattutto cambiano evidentemente anche le priorità economiche, sulla base del fatto che la maggioranza deve rispondere a questo interesse di Silvio Berlusconi. E faccio notare che a pagina 3 della Stampa c'è anche un altro elemento, con un pezzo di Niccolò Carratelli, il quale ci racconta che la questione calabrese è tutt'altro che esaurita. Calabria, tutti dicono no, perché nessuno ormai vuole fare il commissario alla sanità della regione Calabria dopo quello che è successo nelle settimane scorse. No grazie, il commissario alla sanità in Calabria no. Più passano i giorni e più l'imbarazzo cresce. Dopo le figuracce in serie con Cotticelli, Zuccatelli e i coniugi Gaudio, il governo non riesce a trovare un eroe per l'incarico meno ambito del panorama nazionale. Per ultimo ha rifiutato l'ex prefetto Francesco Paolo Tronca, l'uomo che prese in mano il Campidoglio dopo il burrascoso addio dell'allora sindaco di Roma Ignazio Marino. Si è defilato anche un altro candidato, l'ex ufficiale della Guardia di Finanza Federico D'Andrea, già investigatore di Mani Pulite. Insomma, Mafia Capitale e Tangentopoli erano due passeggiate in confronto al disastro della sanità calabrese. Conte e Speranze continuano la ricerca, nel dubbio, dice Carratelli, non rispondete al telefono, potrebbe essere il presidente del Consiglio che vi chiede di fare il commissario in Calabria. Allora, abbiamo parlato molto di scuola e poco, devo dire, in questo periodo si è parlato dell'università, università che è in gran parte a distanza, anch'essa, però c'è uno spunto interessante che ci arriva dal Sole 24 Ore in una pagina a cura di Eugenio Bruno, che mette giù un po' quelli che sono i dati delle immatricolazioni e che segnalano un movimento che, se ricorderete, quando abbiamo avuto ospite qua il ministro dell'università Manfredi, già si intuiva, ma i dati sono arrivati e si iniziano ad abbandonare alcune università del nord, o quantomeno le immatricolazioni crescono, ma crescono molto di più al sud e, per così dire, nelle città di origine. Innanzitutto aiuta il fatto che molti corsi siano spostati online, perché c'è un aumento delle immatricolazioni del 6%. E però nelle piccole città e in alcune città del sud vediamo una crescita notevole, addirittura a due cifre: Catania più 17,4% delle immatricolazioni, Foggia più 26%. Genova sale del 17%, non al sud, però non nel cuore della pandemia quantomeno. L'Aquila più 16%, Messina più 27%, anche se crescite si segnalano anche a Milano, con le immatricolazioni che crescono del 7%, almeno alla statale, del 3% alla Bocconi, del 2,5% all'Università Cattolica. A Napoli, l'orientale di Napoli, più 32,4% nella crescita delle immatricolazioni. Come vedete, c'è una sorta di spostamento che vede, che ne so, anche a Camerino una crescita del 20%. È uno spunto interessante, sarà da riflettere insieme, uno spunto da tenere presente insieme a quello e ai dati che sono stati diffusi nei giorni scorsi sul cosiddetto South Working. Intanto il traffico. Dunque, a proposito di ristori, a proposito di provvedimenti economici, a proposito di difficoltà delle famiglie, vi segnalo, la notizia è uscita nel fine settimana. E molti giornali per il momento la tengono sotto traccia perché è solamente un emendamento. E però il tema è aperto, siamo a pagina 8 e 9 della Verità, e il tema è la guerra degli affitti. Perché la guerra degli affitti? Perché il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento perché per la proroga un'ulteriore sospensione degli sfratti, oltre a quella che c'è già stata, fino al 31 marzo 2021, c'era il blocco degli sfratti che era in scadenza a fine dicembre. Si prevede inoltre la proroga al 30 giugno dei pignoramenti e si lavora al blocco dei protesti. Scrive Laura Della Pasqua: chi da anni fa il furbo tira un sospiro di sollievo, anche perché in pratica sarà molto più lunga. Poiché i tribunali sono ingolfati dalle pratiche sospese causa Covid, i primi sfratti potrebbero avvenire addirittura nel 2022. Nel frattempo i proprietari dovranno continuare a pagare tasse, bollette e condominio. Il blocco degli sfratti è stato introdotto per proteggere le categorie più deboli, tra cui gli inquilini colpiti dalla crisi. Il provvedimento però tutela anche chi se ne approfitta e congela tutte le esecuzioni di sfratto decretate prima del Covid, che nulla quindi hanno a che fare con gli effetti della pandemia. La Verità che ci riporta le due opinioni. Una è quella di Massimo Pasquini, che è segretario nazionale dell'Unione Inquilini, il quale dice: lo Stato è troppo lento con gli aiuti e per questo serve una nuova proroga. L'altro intervistato è Giorgio Spaziani Testa, che è presidente di Confedilizia, dei proprietari. È come se ci avessero espropriati, nessuno farà più contratti lunghi. È un tema che tra l'altro qualche ascoltatore ci ha sottoposto via mail, vi prometto che arriveremo e lo affronteremo. Cosa ancora dalla giornata di oggi? Beh, come vi dicevo, alle 8.35 affronteremo il tema della violenza sessuale nella settimana che ci porterà il 25 di novembre, ossia dopodomani, la giornata di mercoledì, a quella che è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E ci sono un po' di pagine di giornale su questo che si intrecciano con vicende politiche e con vicende radiotelevisive. Allora, iniziamo dalla sostanza e dalla cronaca. C'è una bellissima pagina, che è pagina 15, bellissima si fa per dire perché i racconti sono terribili, però è pagina 15 del Messaggero, firmata da Maria Lombardi, che raccoglie i racconti delle persone che si occupano di aiutare le donne che subiscono violenze in famiglia. Lo sguardo: mi hanno sempre colpito i loro occhi, smarriti, poi cominciano a parlare, le vedi cambiare. Pian piano si allentano le tensioni e sparisce quell'espressione carica di paura, la voce rabbiosa o incerta. Spesso non capiscono cosa stanno vivendo, non sanno dargli un nome, sono confuse, si sentono in colpa. Lui mi dice parolacce, mi insulta davanti ai figli, non fa che ripetermi non vali niente, mi controlla il telefonino, mi impedisce di uscire anche per fare la spesa. Quando torno a casa mi rimprovera per come sono vestita, non mi dà soldi. Ma questa è violenza? Micaela Cacciapuoti, quegli sguardi persi li ha incrociati per anni al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma, come operatrice del Codice Rosa. E quelle voci agitate le ascolto ogni giorno al numero antiviolenza 1522 e le calma. Voci senza nome che raccontano cosa accade in casa. Nessuno vede quello che lui mi fa? Mi crederanno? O che confessano le paure? Diventano silenzi. Mi minaccia: se parli ti tolgo i figli. È una pagina tutta da leggere, questa qua, firmata da Maria Lombardi, che racconta esattamente di questo, di quello che succede appunto in alcune case, in troppe case. Come vi dicevo, la giornata nella quale si parla della lotta alla violenza contro le donne, che è quella del 25 novembre, la giornata mondiale, innesca anche una polemica che ha a che fare con la TV italiana, con la RAI e con quello che è successo intorno a una trasmissione della conduttrice Franca Leosini. Sue trasmissioni le conoscete, sono quelle nelle quali intervista i protagonisti dei grandi delitti. Ebbene, per la giornata del 25 novembre era prevista la trasmissione, in vista di questa giornata, la trasmissione di due interviste. La prima a Luca Varani, l'ex di Lucia Annibali, la donna sfregiata dall'acido che adesso è deputata del Partito Democratico, e l'altra ad Angelo Izzo, il boia del Circeo. E a un certo punto la RAI si è posta il problema che forse trasmettere le interviste a due carnefici potesse non essere opportuno, per quanto le interviste di Leosini fossero delle interviste molto dure. Siamo a pagina 11 della Stampa. Tra l'altro c'è un'intervista a Franca Leosini che dice che aveva esattamente fatto questa scelta. Lei era proprio convintissima, in piena coscienza, e le dirò perché. Questa terribile vicenda credo che sia, tra le tante che raccontano di violenza, la più paradigmatica. Quale violenza può essere più crudele di quella che viene inflitta a una donna che le rimarrà impressa sul corpo per sempre? La tenuta in vita, obbligandola a pensare a quanto le ha fatto il giorno dopo. E parla ovviamente di Lucia Annibali. Troppo forte il ricordo per la vittima, se riproposto così, non crede? Chiede Michela Tamburrino. Assieme ai responsabili della rete abbiamo pensato che fosse importante mettere gli uomini di fronte all'operato di uno di loro che ha generato dolore. Nel corso dell'intervista io ho incalzato Varani, ne è uscito come era giusto uscisse nessuna concessione, come era giusto fosse, come uso fare in tutti i miei programmi che mostrano che cosa può fare di una persona apparentemente normale un mostro. La vicenda si intreccia anche, e questo ve lo segnalo dal punto di vista della politica, dal punto di vista radiotelevisivo, con il caso della trasmissione Titolo Quinto su Rai 3, che avrebbe dovuto ospitare il presidente della commissione antimafia Nicola Morra nella giornata di venerdì, ma alla fine ha deciso di non ospitarlo dopo le polemiche sulle parole di Morra in merito alla governatrice, alla presidente della Calabria, Iole Santelli. E quindi si addensano nubi, sostiene la stampa con Michela Tamburino, esattamente sui vertici della Rai, non da oggi a dire il vero. Sulla questione di trasmettere o non trasmettere queste cose, anche qua un'opinione, si può anche sostenere tranquillamente l'opposto, come fa la Leosini. L'opinione di Michela Murgia, sempre sulla stampa, dice: nessun ladro viene intervistato nelle reti del servizio pubblico per sapere quali motivazioni lo abbiano spinto a rapinare una banca, lasciando sul lastrico i suoi risparmiatori. La ragione è ovvia, tutti danno per scontato che a muoverla alla rapina sia stata l'avidità di denaro. Chi penserebbe mai di credergli se dicesse che ha rubato milioni di euro per bisogno? Lo giustificherebbe per questo? Dice Michela Murgia: purtroppo quando si parla di reati di violenza nell'ambito delle relazioni, la certezza della colpa del carnefice non sembra essere così categorica, e tutti i media, televisioni e giornali sentono l'improvvisa esigenza di capire anche le sue ragioni, cosa che, sostiene Murgia, non andrebbe fatta. GR24, ci risentiamo tra poco con Paolo Mieli.